giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Dicembre 1969, sono le 16:27. Nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana di Milano scoppia una bomba di elevato potenziale. 17 morti e 88 feriti. Inquirenti indirizzano le piste investigative verso gli anarchici. 84 di loro vengono fermati. Tra loro c'è Giuseppe Pinelli, 41 anni, frenatore delle ferrovie, sposato e padre di due bambine. È anarchico individualista fin da ragazzo e fa parte del circolo Ponte della Chisolfa di Milano. Gli agenti lo fermano in via Scaldasole 5, dove ha sede una succursale del circolo. Davanti ai funzionari dell'ufficio politico appare tranquillo. Il commissario Luigi Calabresi in particolare lo invita a seguirlo in questura. Una pura formalità, dice il poliziotto. I due si conoscono da tempo, si scambiano perfino libri e confidenze. Pinelli segue in motorino la vettura di Calabresi. Raggiungono via Fate Bene Fratelli, la sede della Questura di Milano, salgono le scale. Nei tre giorni successivi Giuseppe Pinelli ottiene di parlare più volte per telefono con la moglie Licia. Anche con lei si mostra calmo e fiducioso. 15 dicembre 1969, tarda sera. Alla Questura di Milano inizia l'interrogatorio di Giuseppe Pinelli. Al quarto piano sono presenti il commissario Calabresi, i brigadieri Panessa, Mucilli, Mainardi, Caracutta e il tenente dei carabinieri Lograno. La stanza è piena di fumo, una luce potente illumina il volto dell'anarchico. Ognuno gli rivolge domande a raffica. Per gli inquirenti, lui e Pietro Valpreda sono gli autori materiali della strage. Calabresi fuma nervoso ed esce dalla stanza. Poco prima di mezzanotte nel cortile della Questura di Milano un corpo si infrange poco accanto al giornalista dell'unità Aldo Palumbo. Presa poco sono fatto, sono passate, erano circa le 23:57, ricordo che ho guardato l'orologio perché dovevo, avevo intenzione di tornare al giornale a pigliare la prima edizione e poi ritornare. E quantomeno ho deciso di andare, e sono stati i colleghi che c'erano, gli altri giornali, e sono sceso, mi sono avviato per lì. Normalmente per le scale ho acceso una sigaretta, sono arrivato sotto l'atrio e proprio in quel momento ho sentito dei rumori, uno spattico di qualche cosa che batteva, un grido e poi tre rumori consecutivi. Grosso scatolone che cadesse urtando due volte contro qualcosa e poi l'ultimo impatto al suolo naturalmente. Questi sono dei rumori un po' sordi, due più ravvicinati e uno leggermente più distanziato. Tanto che poi ho dedotto dopo che sto corpo che era caduto doveva aver urtato contro i due cornicioni. La versione ufficiale parla subito di suicidio. Giuseppe Pinelli, messo alle strette, si sarebbe lanciato dal quarto piano della Questura di Milano uccidendosi. La RAI annuncia così la sua morte, intervistando l'allora questore del capoluogo lombardo, Marcello Guida. Questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del Palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Pinelli era noto per la sua attività anarchica e il suo fermo era stato convalidato e protratto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito agli inquirenti un alibi che, sempre a detta delle stesse agenzie di stampa, non aveva trovato convalida. Si è parlato anche di un testimone che avrebbe visto il Pinelli giocare in una osteria. Questo è l'elemento che a noi non risulta perché nel verbale di fermo, vero, non c'è alcuna indicazione di questa circostanza particolare, quindi sfugge completamente alla nostra cognizione questa circostanza. Da quella finestra che si sta socchiudendo il Pinelli si è gettato al quarto piano e il suo corpo è caduto su quella aiola. Lo hanno trasportato subito all'ospedale Fate Bene Fratelli e ha vissuto soltanto un'ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dai sanitari. Licia Pinelli, moglie di Giuseppe, però di diverso avviso. voi signora, dove sta molto meglio. Alle 1:05, il giorno 16, sono arrivati i giornalisti di Enrique Pignorama. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito, ma sa signora, abbiamo molto da fare. Gli anarchici, lotta continua ed altri gruppi della sinistra extraparlamentare parlano invece di omicidio. Per loro l'imputato numero uno è il commissario Luigi Calabresi. Sarà assassinato poi il 17 maggio del 72 in via Cherubini a Milano. Anni dopo la magistratura accerterà che Calabresi non era presente nella stanza al momento del volo di Pinelli dalla stanza del quarto piano della questura di Milano. ...1975. La salma di Giuseppe Pinelli viene riesumata e analizzata. Si scopre che il corpo dell'anarchico presenta lesioni. Il caso viene quindi chiuso dalla sentenza del giudice Gerardo D'Ambrosio. Pinelli sarebbe morto per un malore attivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo stress degli interrogatori, le troppe sigarette a stomaco vuoto unito al freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato un malore. Ma Pinelli, invece di accasciarsi, come avviene sempre, avrebbe spiccato un balzo in avanti. Così è scritto nella sentenza. Non tutto però è chiaro nella morte di Giuseppe Pinelli. Nel 1994 vengono trovati migliaia di faldoni in una dépendance del Ministero dell'Interno sulla via Appia a Roma. Sono i documenti dell'ufficio affari riservati diretto da Francesco Umberto D'Amato. Si scopre che la cosiddetta pista anarchica per la strage di Piazza Fontana viene suggerita dallo stesso D'Amato attraverso l'infiltrato degli anarchici Enrico Robelli, nome in codice Anna Bolena. È lui che alla fine indirizza gli inquirenti verso Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Le sentenze confermeranno la loro totale innocenza. Di Francesco Umberto D'Amato resta soltanto questa traccia sonora, inedita, tratta da un confronto televisivo con l'allora segretario della CGIL, Luciano Lama. Il tema era allora l'infiltrazione e la schedatura degli oppositori politici. Noi avevamo quello che si chiama il casellario politico centrale ed era un casellario nel quale esistevano i fascicoli delle persone ritenute pericolose dal punto di vista politico, dal punto di vista della sovversione. E io ero uno di quelli, se non sbaglio, per esempio. Si è sempre così pronti a rimproverare alla polizia, ai carabinieri, le schedature, i controlli, questo e quell'altro, quando poi succedono i momenti di emergenza, quando poi c'è il terrorismo rosso, il terrorismo nero, la mafia e tutto il resto, allora la polizia e i carabinieri che non schedano abbastanza, che non sanno questo. Di, parliamo dei servizi, parliamo di una certa elite che comandava e anche di una certa elite che stava al Ministero degli Interni probabilmente. Non parliamo né dei carabinieri né della polizia, la quale ultima certamente è assai cambiata dal 64 all'84, su questo anche non c'è dubbio. Mi scusi, io lei non ha dato una risposta a quello che io ho detto. In sostanza la questione, la schedatura non è altro. Parliamoci chiaro, oggi intanto con la... No, la schedatura è una cosa illegale, se mi permette. Oggi intanto tutto il mondo... Questo è la schedatura. Mi stia a sentire. Come la chiama altrimenti? Ci schedano i delinquenti. Oggi intanto tutti quanti siamo schedati molto più di quanto non fossimo nel passato. Oggi allora, bella tutto il mondo... che ci dà. Ah, beh, mi meraviglio che lei se ne meravigli.